Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa Italia in controluce, due edizioni, 6.30, 13.30. Come sapete è stato arrestato Bin Laden, il capo dell'organizzazione terroristica Al-Qaeda. E noi oggi con Marco Giacconi del Centro Militare di Studi Strategici di Roma vogliamo capire quali possono essere le ripercussioni per quanto riguarda la sicurezza nel nostro paese dopo l'arresto di Bin Laden. Gli aspetti della sicurezza sono probabilmente ancora difficili da enucleare, perché se da un lato ci sono diversi segnali secondo i quali è possibile una serie da parte delle cellule anche europee, delle cellule silenti di Al-Qaeda, una retaliation, una serie di attentati per vendicare lo sceicco, anzi il sedicente sceicco Osama Bin Laden, è però anche vero che la morte di Bin Laden sicuramente provocherà un ulteriore frazionamento all'interno del gruppo dirigente di Al-Qaeda e delle varie strutture affiliate, quelle strutture che avevano giurato nelle mani, nel diritto islamico si chiama Bayat, ecco, le strutture e persone, singole persone che avevano in qualche modo collaborato fin dall'inizio o a metà strada con il progetto qaedista. Da una parte la morte di Bin Laden, dall'altra la crisi libica. L'Italia potrebbe ancora essere oggetto di attentati o comunque nel mirino di organizzazioni di tipo terroristico? Osama Bin Laden ha sempre, negli ultimi tempi ormai, ha sempre ritenuto il regime di Gheddafi un regime assolutamente negativo, addirittura ritenendo la persona stessa di Gheddafi un pazzo pericoloso, questa era la definizione che ne dava nei suoi messaggi più recenti Osama Bin Laden, e Gheddafi ha sempre ritenuto, questo però ovviamente è più un dato pubblicitario che altro, che la rivolta di Bengasi fosse in qualche modo organizzata o ispirata dalla rete di Al-Qaeda in Libia. È vero che la rete di Al-Qaeda in Libia era stata in qualche modo riassorbita prima con il rientro in patria del primo vero grande qaedista libico, che è Nauman Ben Othman, uno dei primi collaboratori di Osama Bin Laden in Afghanistan, e la rottura poi da parte di Ben Othman del fronte jihadista, della stessa ideologia della guerra santa, e dall'altra poi c'era stato il progetto di riassorbimento gestito da Saif al-Islam Gheddafi, di riassorbimento e di rieducazione, un po' come hanno fatto i sauditi da tempo, delle ultime reti qaediste presenti in Libia. Quindi io credo che la possibilità da parte di Gheddafi, soprattutto ora, di rendere attive cellule qaediste in Italia sia abbastanza remota. È invece molto probabile che Gheddafi possa ancora attivare le sue cellule, sia dei servizi, sia così delle varie associazioni, delle varie reti di libici residenti in Italia, e queste potrebbero diventare non tanto operativi ma elementi di induzione, prendendo manodopera da manodopera terroristica da varie fonti, di induzione di qualche attentato in Italia. I servizi stanno molto bene monitorando questa situazione, però non è detto che la situazione riguardi l'attenzione probabile di attività terroristiche in Italia da parte dei libici sia legata solo ai libici. In Italia quante sono le cellule di Al-Qaeda che sono state accertate dalle vecchie e dalle ultime inchieste sul terrorismo internazionale nel nostro paese? Circa una ventina. E queste sono dislocate dove? Sono dislocate soprattutto nel nord Italia, ma con una presenza non trascurabile nel meridione, nelle grandi città del sud. Dal punto di vista economico, in Italia parlo, quanto è l'incidenza di queste cellule terroristiche? Chi li finanzia nel nostro paese? Beh, certamente finanziamenti diretti da parte degli apparati di alcuni apparati di sicurezza dei paesi islamici cosiddetti radicali, un termine improprio, ma comunque lo usiamo per capirci. Certamente attività criminali e di economia criminale, di economia dell'illecito. Questo per esempio era tipico anche delle cellule di Al-Qaeda che operavano e che operano probabilmente tuttora in America Latina. Quindi attività dell'illecito, truffe di vario genere, riciclaggio di denaro sporco, carte di credito false, cioè tutta l'economia criminale è in qualche soldi falsi, è in qualche modo, vuol dire, gran parte, almeno l'80% del finanziamento di queste reti autonome o semi-autonome di Al-Qaeda. Queste cellule presenti nel nostro paese, quelle che sono state accertate dalla magistratura e dagli investigatori, dal punto di vista politico, militare e finanziario, erano riconducibili direttamente a Bin Laden? In molti casi sì, in altri casi erano cellule di militanti jihadisti che si stavano in qualche modo avvicinando, stavano facendo gli esami, usiamo questa metafora scolastica, per entrare direttamente nella rete qaedista. Si noti bene che per diventare parte reale, parte efficiente della rete di Al-Qaeda occorreva che ci fosse il permesso della sede centrale, diciamo così, probabilmente della stessa persona di Bin Laden o di Ayman al-Zawahiri. I servizi segreti italiani cosa dovrebbero fare ora dopo la morte di Bin Laden? Dovrebbero probabilmente, e probabilmente lo stanno già facendo, non ne ho informazione diretta, potrebbero e dovrebbero analizzare la evoluzione delle cellule qaediste, delle cellule jihadiste, per usare un termine più esatto, rimaste, vedere se la caduta del centro politico strategico di Bin Laden diventa un liberi tutti, insomma una possibilità di colpire liberamente e di rendersi più autonome dal centro, oppure invece diventa l'occasione di una lotta politica e politico-religiosa interna tra coloro che vogliono un jihad lento, esplosivo e più politicamente radicato nelle contraddizioni dell'Occidente, e altri invece che vogliono un jihad terrorista come quello che abbiamo verificato finora, ecco. Perché nel dibattito recente sulla dottrina del jihad c'è stata una polemica forte tra per esempio il cosiddetto dottor Fadl, un jihadista egiziano, un collega e amico, medico anch'egli, di Ayman al-Zawahiri, che ha scritto vari testi ritenendo, accusando Al-Qaeda e Ayman al-Zawahiri di condurre un jihad irregolare, un jihad non giustificato dal punto di vista del diritto islamico, quindi colpire islamici, colpire donne, colpire obiettivi non militari, eccetera eccetera. Quindi questo è un primo filone. L'altro filone è quello di Al-Suri, un altro jihadista probabilmente dietro gli attentati di Londra, che invece ha sempre sostenuto, per usare il titolo del suo libro più importante riguardante il jihad, la teoria del jihad, la gestione della barbarie, cioè un jihad che si incunea lentamente ma progressivamente in tutti gli elementi critici e di debolezza strutturale dell'Occidente, utilizzandoli tutti senza abbandonare certamente la via maestra, diciamo, del terrorismo jihadista, ma diventando più un fenomeno politico. È probabile, per esempio, che data il nuovo sistema politico italiano, data anche la fluidità estrema in questi tempi del sistema politico italiano, non escludo che vengano fuori partiti, soprattutto a livello locale, liste che rappresentano in modo abbastanza generico e quindi pericoloso, rappresentano le minoranze islamiche in Italia. Grazie mille a Marco Giacconi in diretta su Radio 24, il direttore di ricerca al Centro Militare di Studi Strategici di Roma, e termina qui anche la seconda puntata di Italia in Controluce, che torna domani. Parleremo di un caso importante in Toscana di gestione di una società pubblica e privata dell'acqua pubblica.